Di nostalgia che bruci nel mio cuore, la vita mia è presa dall'amore, in bava che sarà di voi senza te. Sono ritornato ancora per dirti come allora, la vita mia sei tu. Sorridimi ancora, ritorna il mio amore, sussurra la parola più dolce che consola, e mami dimmi ancora. Sorridimi amore, con gli occhi tuoi belli, scintilla nel tuo viso, facendo il paradiso al cuore mio sogno. Forse la gelosia m'allontana da te, questa la gran follia che non perdoni a me. Cuore che l'amo sempre più, dillo tu. Guarda il mio volto bianco, leggi nell'occhio stanco il muto mio dolore. Sorridimi ancor, ritorna il mio amor, e sussurra la parola più dolce che consola, che mami dimmi ancora. Sorridimi amore, con gli occhi tuoi belli, e scintilla nel tuo viso, facendo il paradiso al cuore mio sogno. Sorridimi amor, con gli occhi tuoi belli, la scintilla del tuo viso, facendo il paradiso al cuore mio.